Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giovanni Malagò, 57 anni, romano romanista, due figlie con l'attrice Lucrezia Lante della Rovere, laureato in economia, imprenditore, dirigente sportivo, ex giocatore professionista di calcio a 5, ha giocato in mondiali, vinto 3 scudetti, 4 Coppa Italia, presidente del comitato organizzatore dei mondiali di nuoto di Roma del 2009, presidente del CONI dal 2013 e del circolo canottieri Aniene dal 1997. Ecco, presidente Malagò, allora siamo davvero arrivati alla fine corsa per le Olimpiadi? Sì, siamo arrivati a fine corsa. Ma è vero buongiorno. Che ha, buongiorno. È vero che ha pianto quando è stato sicuro dell'esito? Proprio pianto no, ma sicuramente mi sono commosso. Nel senso, non sono uscite lacrime, forse è stato anche qualcosa di peggio. Cioè, un piano B nel cassetto non c'è, eh? No, piano B nel cassetto c'è o ci poteva essere, cioè quello di portare avanti la candidatura, come d'altronde è successo in passato in altri casi. A prescindere. A prescindere, ma ecco, l'abbiamo scartato. Ecco, ma perché esattamente il comune che ospita le Olimpiadi, che cosa deve pagare? Cosa deve pagare? In questo caso niente, nel modo più assoluto. Cioè non deve pagare nulla. Deve dare la sua disponibilità a supportare la candidatura. Ecco, ma perché il consenso del comune è indispensabile? Ma innanzitutto devo precisare che solo in Italia esiste la parola comune, perché in Germania è il Lander, negli Stati Uniti è il discorso città metropolitana con lo Stato. In altri paesi. Vabbè, dove ognuno la chiama a modo suo. Esatto, no, l'amministrazione locale sostanzialmente. Ma perché dal primo giorno ho spiegato chiarissimamente che per essere credibili e forti bisognava avere il comune dietro. No, bisognava avere tre cose. Un governo che era d'accordo e che garantiva gli impegni finanziari e sosteneva la candidatura, un comune ovviamente disponibile a sostenerla e un comitato olimpico che ne facesse carico, che l'interlocutore col CIO. Senta, presidente Malagò, comunque la Raggi ha fatto la sua campagna elettorale sul no alle Olimpiadi. Senta qua. Con queste Olimpiadi, di fatto, con le Olimpiadi, quello che si chiede è di assumere altri debiti. Vi ricordo che all'interno della gestione commissariale 1 miliardo di debiti è costituito dalle indennità da esproprio delle Olimpiadi del 1960. Tutti noi romani e tutti gli italiani stiamo ancora pagando quei debiti. Stiamo ancora pagando quei debiti, presidente Malagò? Ma guardi, ho fatto una conferenza stampa in cui questo tema l'abbiamo abbondantemente chiarito anche con i documenti. Questa è una cosa assolutamente falsa. Questa è una cosa assolutamente falsa. D'altronde l'unica persona che può certificarlo è il commissario al debito, la parte straordinaria, che si chiama Silvia Scozzese, ha prodotto un documento, ha spiegato chiaramente che tutto questo cosa, non è dice una cosa non vera. No, assolutamente non vera, perché in quel miliardo di debito ci sono tutti quelli che sono i debiti commerciali del comune, sugli espropri, altre situazioni, affitti non pagati, non c'entrano niente le Olimpiadi. Senta, ma perché la Raggi avrebbe dovuto cambiare idea avendo fatto la campagna elettorale su quello? Ma per un motivo molto semplice. Lei ci ha sperato fino all'ultimo? Io ci ho sperato perché di natura sono un ottimista, ma per un motivo molto semplice, perché la candidatura del 2024 è una candidatura completamente diversa rispetto a quelle che sono state dalle Olimpiadi moderne dal 1896. Ma c'era qualcuno che gliela faceva sperare che avrebbe cambiato idea? Beh, diciamo che c'era più di qualcheduno, ma soprattutto quello che intorno a Raggi, immagino. Sì, certo. Ma soprattutto, vede, soprattutto quello che conta è che avevamo, penso, diritto di parlare, di spiegare, di riuscire a metterci intorno a un tavolo, e insieme a me il presidente del comitato paralimpico, che onestamente forse è stato il più penalizzato di tutto, e la parte del comitato, in questo caso Diana Bianchetti, non siamo mai riusciti a parlare. Senta, presidente Magro, però quando il governo Monti disse no alle Olimpiadi, perché lui ha detto no, tutti pensarono che in quelle condizioni di austerità aveva fatto bene. Perché adesso doveva essere diverso? È perché, come le ho detto, il presidente Thomas Bach, quando è stato eletto presidente del CIO, ha capito che un certo... è cambiato tutto? È completamente. Cioè il modello, diciamo, di candidatura... cambiato, cioè. Eh sì, non si tratta più di fare degli investimenti, si devono fare delle opere temporanee, non devi fare delle cose che poi non servono, serve indispensabilmente qualche cosa che lega alla Lega. Perché in effetti le Olimpiadi a molte città, a qualche città ha fatto bene, ma molte hanno fatto male, d'accordo? Anzi... Senta la Raggi cosa dice. Questa è una tabella molto interessante. Di fatto testimonia un flop mondiale, no? È ricavata dalla Oxford University, a uno studio del 2016, nel quale si attesta in maniera molto chiara che rispetto ai costi preventivati praticamente tutte le Olimpiadi prese in considerazione hanno avuto uno sforamento, quasi tutte di oltre il 50%, molte addirittura di oltre il 100%. Montreal ha avuto un incremento del 720%, Barcellona del 266%, Atlanta del 151%. Insomma, i numeri sono molto, molto, molto duri. Perché a Roma sarebbe stato diverso? Perché è cambiato il modello? È cambiato completamente il modello, ma soprattutto in questo caso si sta parlando di quello che sono i costi rispetto al preventivato. Deve partire dal presupposto che le Olimpiadi di recente memoria sarebbero costate 10 volte di più rispetto a quello che sono le Olimpiadi del 2024 con questo modello diverso, ma soprattutto quello che noi chiedevamo, anche devo dire con grande disponibilità, con grande apertura, era per questo che volevamo parlare. Visto che non ci si fida di quello che sono i budget, mettete voi le persone giuste a controllare. Certo. Però a Tokyo, per le Olimpiadi del 2020, hanno già annunciato uno sforamento di budget di 30 miliardi. Insomma, difficilissimo fare queste previsioni, tutto sommato, mi pare, no? Ma guardi, il tema di Tokyo è perché è stata l'ultima Olimpiadi progettata proprio con un certo tipo di opere che probabilmente non servono, fermo restando che non era mica obbligato da parte di Tokyo di fare uno stadio esempio con chi gli ha progettato la Zaradid. Nel caso nostro, se entrava nel merito del dossier, si rendeva conto che la filosofia era completamente diversa. Senta, ma intanto quanti soldi sono stati spesi fino ad oggi per organizzare la candidatura? Il processo si è interrotto alla fine spesi finora, sì. Sì. Beh, si è interrotto da questa settimana quando abbiamo formalmente messo in liquidazione il comitato circa 13 milioni di euro. 13 milioni di euro, quindi spese non recuperabili, quelli sono andati. Sono spese della candidatura, certo. Senta, comunque, fino al 3 febbraio, data della presentazione della fase 3 del progetto al Comitato Olimpico Internazionale, può ancora cambiare tutto oppure no? È fine. Infatti, senta Calenda, anche lui ci ha detto ieri una cosa precisa. Malagò, si deve mettere il cuore in pace definitivamente per le Olimpiadi. Sì, purtroppo mi pare di sì. Sì, purtroppo, perché noi siamo un paese che vive quando sta con la testa fuori dall'Italia e riesce a portare il mondo in Italia, e le Olimpiadi sono un'occasione per farlo. Non si può dire di una grande sfida internazionale che avviene fra un tot di anni non ci arriveremo, non lo possiamo fare. Penso che è un errore oggi, perché noi dobbiamo farcela, dobbiamo provarci, non nascondendo le difficoltà. Però quando ha detto no la Raggi, obiettivamente oltre ai numeri che ha dato, che abbiamo sentito, ha fatto vedere un filmato impressionante sul degrado di molti siti sportivi a Roma. Ecco, non sarebbe logico che venisse prima il recupero di quei siti, prima di tutto? Ma guardi, per l'ha me, visto quel filmato? Ma certo che l'ho visto. Guardi che per me quei filmati sono stati proprio un autogol assoluto. Cioè la candidatura, bastava leggere il dossier, aprire i fogli. Ma lei insiste, cioè non l'hanno letto. No, ecco, ma proprio, cioè, noi presentavamo un'ipotesi, una soluzione, un progetto per risolvere quei problemi. Anche perché all'interno del dossier non si costruiva nulla, salvo il villaggio degli atleti e la sala stampa, che automaticamente non prevedesse invece il recupero di quelle opere che invece però sappiamo. Però molti romani obiettivamente temevano un remake dei mondiali del nuoto del 2009, che hanno avuto dei problemi, era una paura fondata. Ma guardi, mondiale di nuoto, ne abbiamo parlato tantissime volte, lo ridico ancora una volta. Io mi sono occupato della parte sportiva. Se lei parla sia con gli atleti che con la Federazione Internazionale, sono stati a detta di tutti i mondiali, parlo sportivamente parlando, il più grande successo. Poi se c'è stata una cabina di regia, e sappiamo perfettamente che ci sono stati anche dei processi che hanno realizzato delle opere, ma questo non c'entra niente dalla parte sportiva. Scusi se io dico, bisogna trovare un altro interlocutore. Senta, le ricordo che a Tor Vergata però c'è ormai il leggendario scheletro disegnato da Calatrava, 250 milioni di euro per un cumulo di cemento, un ammasso di ferro, potrebbe costare alla fine 6 volte di più. È vero, sempre una responsabilità di altri? Ma è proprio una delle pietre dello scandalo. Noi avevamo previsto con le Olimpiadi e soprattutto con gli investimenti del CIO 1.700 milioni di dollari di recuperare quello che è un'opera incompiuta. Senta, purtroppo non so adesso quali altre alternative di progetti ci sono. Cioè resterà quello secondo lei? Mi auguro di no, ma ho paura di sì. Senta, ho sentito parlare di una città della scienza della le fanno dappertutto la città della scienza. Mi sembra che sia il tema che si diffonde in tutta Italia piano piano. Senta, Presidente Malagò, l'altro giorno, malgrado la decisione del sindaco, Renzi ha detto che per l'aggiudicazione delle Olimpiadi eravamo davanti a tutti. Ma come faceva a saperlo? Magari Renzi si fidava di quello che gli dicevo io, ecco, oppure, lei cosa gli oppure diceva? No, io dicevo che eravamo ben messi, ma soprattutto Renzi devo dare atto, siccome la candidatura si vince convincendo i membri del CIO a votarci, certo. Siccome Renzi spesso li ha incontrati, io l'ho incontrati spessissimo, sempre. Automaticamente diciamo, aveva la sensazione, forse che... neanche troppo sbagliata, che eravamo ben messi. No, perché lei stesso dice che è stato in grado di sapere in anticipo che avrebbe votato Roma per i mondiali del 2009 e del 2008. Insomma, funziona un po' come il Parlamento, compravendita di voti, insomma, molto, molto lobbying, insomma. Senta, io sono una persona che per circa 3 anni ho girato tutto il mondo per andare a parlare con queste persone. E insieme a me l'hanno fatto i membri del CIO italiani, l'hanno fatto membri del governo, l'hanno fatto i stakeholder internazionali, i presidenti di federazione. Qualcosa sapremo. Sarà capitato. Qualcosa sarà capitato anche per convincere. No, sarà capitato nel senso, uno parla e si fa un'idea. Senta, Presidente, anche a Torino però, le Olimpiadi invernali, che effettivamente sono state molto valorizzate, hanno dato una spinta alla città, è cambiata. Poi però gli impianti inutili sono tanti e sono rimasti lì abbandonati, penso al Bobo, tanti altri. Insomma, sembra quasi un destino quello che si costruiscono cose che poi finiscono male. Ma a Torino è stato, secondo me, un modello eccellente di Olimpiadi in città. Invece le cose non sono andate bene negli impianti in montagna. Certo. Parliamo della pista di Bob, parliamo delle altre situazioni tipo il trampolino, cose del genere. Ma proprio in virtù di quello che sono discipline magari poco popolari, con impianti che poi si fa fatica ad ammortizzare, a gestire, ecco che nasce la caratteristica dell'Agenda 2020, l'utilizzo di impianti temporanei. Cioè, una volta completato l'evento, si chiude. Senta, lo stop alla candidatura di Roma pregiudica future candidature italiane, secondo lei, o no, Presidente? Sì. Sicura, perché? Perché il Comitato Olimpico Internazionale è oramai diventato diffidente nei confronti della politica italiana e soprattutto di chi ha cambiato idea, perché una cosa che è doveroso dirlo. Cioè, non è che noi siamo partiti ascoltando un parere negativo. Noi avevamo tutte le carte in regola e ci hanno detto cominciate la corsa. Poi a 10 mesi dall'arrivo, cioè quindi al 30° chilometro della maratona, ci hanno detto fermate questa corsa perché sono cambiate le regole. Però la Raggi ha fatto la campagna elettorale su quel no, quindi... Ma io, mi perdoni, credo che tutto si possa dire, eccetto che non abbiamo rispettato l'opinione del sindaco, dell'amministrazione comunale. Ma quando Renzi questo è importante. Sì, ma quando era stato dato l'ok dell'amministrazione precedente, dal governo e dal CONI, l'amministrazione precedente pensa a chi? A Ignazio Marino, ha firmato e sottoscritto la candidatura. Non è che uno prevedeva che dopo un anno non ci sarebbe stata più quell'amministrazione. Questo voglio dirlo. Questo è logico, ha ragione. Quando Renzi dice Milano, è una cosa seria oppure una provocazione alla Renzi? Ma guardi, è difficile dirlo. Innanzitutto bisogna capire cosa succederà sulla giudicazione del 2024. Parigi, Budapest, europeo, Los Angeles, americana. L'altra cosa che le voglio dire è che oggi bisogna recuperare credibilità con il mondo internazionale. Dopodiché stiamo a vedere. Senta, Presidente Malagò, in questo periodo lei ha lavorato molto, l'ha detto, a contatto con Renzi. Cosa le piace di più di lui? È uno che spinge, è uno che magari anche nelle difficoltà cerca sempre di essere propositivo. È di meno? Ma difetto? Il difetto? Ma forse, diciamo, nell'essere un po' meno collegiale di quello che dovrebbe essere. Cioè, la squadra debole? Non dico debole, magari diciamo allargare si delle può, gare. Si può rinforzare, insomma, più competenze. Tutti ci possiamo vabbè, rinforzare. Ok, pochi difetti. In questa vicenda, come molte altre, lei ha stretto contatto anche, oltre che col presidente Renzi, con Malagò, con Montezemolo. Però ha detto una cosa che mi ha divertito molto, perché ha detto che la differenza tra lei e Montezemolo è una sola, che lei lavora e Montezemolo no. Ma no, questa è una vecchia battuta che feci tanti anni fa. Deve sapere che la mia famiglia rappresenta la Ferrari Maserati dal 1956. E Montezemolo per 20 anni è stato presidente della Ferrari. Allora, scherzando tra quello che era il ruolo di un distributore e un concessionario del presidente, dissi che logicamente i concessionari stavano sul pezzo mentre gli altri facevano attività più di rappresentanza. Insomma, lavora Montezemolo? No, guardi, devo dire, su questo è proprio innegabile che ha lavorato tutta la vita. Senta, lei passa per essere uno degli uomini più mondani d'Italia. Si riconosce in questa definizione? È una cosa sempre in giro, no? No, allora, se per mondano è sempre in giro, assolutamente sì. Perché viaggio come un matto, soprattutto ultimamente. No, se si intende un altro tipo di modalità, è una barzelletta. Una barzelletta. Essere grande playboy che tutti descrivono, si riconosce o no? Ma guardi, per essere quello che definisce un playboy serve molto tempo. Io non so proprio cos'è il tempo, purtroppo. Quindi lei come si definisce? una persona responsabile. Senta, Presidente Malagò, ma vista dal circolo Aniene, che è un po' il suo ombelico perché è presidente da 20 anni, come è cambiata Roma negli ultimi 20 anni? Beh, è cambiata in peggio, questo peggio, è poco, no? Ma sicuro, sì. Non solo perché siamo invecchiati. Devo dire, no, ma... Ah. Devo dire che in assoluto la società è cambiata, non certo in meglio, ma la città indubbiamente sotto gli occhi di tutti è in peggio. Senta, lo sarà vita Presidente D'Aniene? No, ho già detto che non mi ricandido, l'ho già comunicato. Perché penso che è giusto così e perché è un posto talmente bello e importante che non si deve identificare con la mia persona per sempre, assolutamente. Ma è compatibile comunque con la presidenza del CONI, sì? Sì, assolutamente, perché l'Aniene, guardi, l'Aniene è una onlus, è come se prendesse praticamente una società no profit, lo stesso senza scopo di lucro, e quindi non ha nessun tipo di compatibilità, anche perché le garantisco che i miei, tra virgolette, oppositori all'epoca, se non fosse stato così, non me l'avrebbero permesso. Senta, e al CONI si ricandiderà per un nuovo mandato? No? Sì. Sì. Senta, come Presidente del CONI qual è la sua soddisfazione più grande? E la rivalorizzazione del territorio è il motivo per cui io viaggio moltissimo, che credo che sia una cosa molto apprezzata. Lo sport si fa soprattutto fuori dai palazzi, tra virgolette, diciamo, del Comitato Olimpico, il Foro Italico. Mi fa piacere soprattutto l'affetto, spero la stima che mi danno le società. Noi abbiamo più di 140.000, è la nostra forza. Guardi, lei in giro per l'Italia, in genere si parla di calcio quando si parla di sport, ma invece lo sport è ben altro anche. No, ma è soprattutto quello. Guardi, l'altro ieri era il settimo turinese in questa palestra incredibile a Chiama, dove Fabio Basile ha vinto la medaglia numero 200 d'oro della storia del paese. Ma ogni giorno vado a toccare, sì, e le voglio dire che magari in dei posti di provincia, ma anche molto piccoli, che non sono neanche ci comuni, sono delle realtà molto, sì, molto magari importanti. Una bocciofila, sì, faccio una battuta, sì, però stia tranquillo, sì, che trovo un tesserato del CONI, non a caso siamo più di 13 milioni. Senta, ma giudica buono il risultato italiano alle Olimpiadi oppure no? Lo considero molto buono, tenendo presente due fattori. Uno, che avevamo un programma olimpico disastroso, non avevamo il fioretto femminile a squadre, non avevamo la sciabola a squadre, e soprattutto poi abbiamo avuto 2 o 3 casi tra vicende di doping di Schwarzer, certo, tra la questione di Tamberio, cose del genere che non ci aiutavano. Lei diceva atletica, vedrete l'atletica niente invece, proprio per questo dice. Ci si è rotto il saltatore che era diciamo accreditato per vincere la medaglia d'oro. Il maratoneta. Certo. Senta, Renzi una cosa nuova l'ha fatta a Roma, però non frequenta i salotti, ha scardinato un po' quel sistema di rapporti e relazioni che giravano intorno ai salotti. Ha fatto bene? Ma guardi, non credo che sia una scelta voluta, scientifica. Io credo che Renzi è uno che lavora 16-17 ore al giorno e onestamente spesso il modo migliore per lavorare è la sera, quando non suonano più i telefoni, non ci sono più gli incontri ufficiali. Questa è la mia opinione, forse sbaglio. Ma però l'Aniene era un centro dove si combinavano tante cose, se ne combinano meno adesso, eh? Ma guardi, anche questo è stato chiarito, mi sembra, abbondantemente. L'Aniene è un posto dove uno entra e lì si dimentica quello che è nella vita. Si scherza, c'è una filosofia, se lei vuole, molto romana, sì, diciamo, di ironica, sì, anche con un po' di sarcasmo, eccetera, ma soprattutto un posto dove si fa sport. E lì lo fanno i ragazzini tutti, delle scuole tutti, fino ai signori oltre 80enni. Scusi se glielo dico, anche questa volta mi ho portato più di 20 persone alle Olimpiadi. Senta, ma... Olimpiadi e Paralimpiadi. Ma oggi è ancora un circolo per soli uomini? C'ha senso nel 2016? Devo correggerla. In realtà le donne vabbè, sono sportive, atlete. Ma il nostro manta, il nostro core business, il nostro statuto è lo sport. E questa è la filosofia della cultura, per cui una donna se fa sport, quindi una donna che fa sport a certi livelli automaticamente. Ma deve essere campionessa, però. Beh, deve essere una che ha fatto risultati. Vabbè, no, invece uomini anche non campioni. Ho capito, ma qui c'è uno statuto che c'è dal 1892, di una cosa che funziona, se la vogliamo rovinare. Stiamo parlando di riforma della Costituzione, allora, chissà se lo statuto dell'Aniene si può cambiare o no. Sì, ma è un'associazione privata, attenzione. Ho capito questo, le donne sono contente così, gli uomini anche, se vogliamo rovinare una cosa che funziona. Le donne sono contente, lo stai sicuro? Sì, perché sanno perfettamente che, almeno a differenza di altri circoli, questo gli faccio uno scoop, si sentono più tranquilli i maschi che vanno lì, non ci sono promiscuità, che le donne che vanno lì fanno sport, scherzi a parte che questa è la verità. Senta, ma nel CONI di Malagò che cosa è cambiato da prima? Secondo me, ecco, qui c'è un tema di collegialità importante e un'altra considerazione è che, sai, il nostro mondo è fatto da federazioni olimpiche, non olimpiche, grandi federazioni come il calcio, piccole come magari possono essere discipline non popolari. Vabbè, ma anche prima era così. Sì, però credo che oggi ognuno contano si di più. Assolutamente sì, si sentono tutti, anche se magari qualcuno non è d'accordo, di poter dire la propria opinione e di essere rappresentati. Ma il suo nemico peggiore chi è, Arconi? Il mio nemico? No, guardi, no, nemici non ce l'ho, no, sinceramente no. Sì. Qualche avversario. Avversari non so chi sarà il candidato o i candidati che avrò contro. Va bene. Senta, ma secondo lei che qualità sono indispensabili per essere un buon sindaco di Roma? Vediamo che è difficile comunque fare sindaco di Roma. Che qualità bisogna avere? Devi essere una persona capace. Capace a fare? È una persona pratica, una persona che riesce a fare le cose. Ecco, ma nella sua vita ne ha incontrato qualcuno che veramente le aveva queste qualità di sindaco di Roma? Buono? Ma di sindaco o di sindaco di Roma? Di sindaco di Roma. Ma qualcuno l'ho incontrato, io penso che ci sono stati anche in passato, sì, assolutamente. Nomi non ne fa. Anzi, no, non mi sarebbe mai elegante. Detto questo, credo che indubbiamente magari farlo prima, quando non c'erano i patti di stabilità, quando c'era l'economia che girava in un certo modo. Era più semplice. Non c'è ombra di dubbio. La spesa era ma più proprio, facile. Proprio per questo forse oggi il sindaco deve essere ancora più capace. Ancora più capace. E lei avrebbe queste qualità, secondo lei? Ma io trovo sbagliato che queste cose, se uno se le auto... Se le autodice. Allora diciamo un'altra cosa, ci ha mai pensato a fare il sindaco? È una cosa che le piacerebbe? Onestamente ci ho pensato. Lei è romano. Sì, quindi, glielo dico. Ci ho pensato quando mi è stato proposto. Mi è stato proposto a più riprese da, da fazioni e politiche diverse. No? Ma perché sono una persona seria, quando ho preso un impegno nei confronti del mondo dello sport, volevo portarla avanti. No, d'accordo, ma insomma, però è una cosa che adesso scade il CONI, potrebbe... Sì, però il percorso del CONI è un percorso che è cominciato da 4 anni, credo. Quindi che sia... dura. E fa parte, credo che, insomma, nella vita poi non si può essere tuttologi. Senta, mi dice una cosa, ma c'è qualcosa che le piace della Raggi? Sì, mi piace il fatto che è donna, il fatto che è giovane, il fatto che ha energia. Ma si augura un suo fallimento? No, no, nel modo più assoluto, anche perché sono talmente innamorato di Roma, perché no, guardi, non c'ho questo tipo di sentimenti. Penso onestamente che ha fatto un grande errore, soprattutto non nel dire no, nel modo in cui ha detto di no, che di fatto non ci ha neanche messo in condizione di confrontarci, ma soprattutto io al posto suo avrei detto... Fatemi capire bene, prendiamo un attimo di tempo, poi al limite vi dico anche no, nel frattempo facciamo la valutazione. Ma lei che è un signore, perché è andato via non l'ha aspettata quando dovevate incontrarvi? Lei poi no, è arrivata. Scusi. L'appuntamento che ci è stato dato era alle 14.30. Vabbè, ok, è un po' in ritardo. Ha fatto una domanda e vi faccio rispondere. Sì. Io stavo con il presidente del Comitato Paralimpico, con Diana Bianchieri, alle 15.07, con tutto il rispetto al mondo, sapendo che era fissata una conferenza stampa alle 15.30, con i giornalisti accanto. Scusi, con tutto il rispetto al mondo, dopo 4 mesi per parlare di un progetto, un lavoro da 3 anni, abbia pazienza, credo che a tutto ci sia un limite. Senta, comunque a Roma, tra le grandi opere da fare, c'è lo stadio della Roma, lei è romanista, ma è necessario veramente... Ma guardi, io sono un fautore di tutto quello che è, diciamo, il miglioramento e la realizzazione di infrastrutture sportive che oggi sono assolutamente indispensabili. Parliamo dello stadio della Roma. Arrivo. Di tutto quello che sono gli altri discorsi di carattere, diciamo, edilizio, commerciale, cubature, io non posso e non voglio assolutamente entrare nel merito. Ma serve lo stadio per Penso che ogni società sportiva debba avere un suo stadio. Come la Juve. Fatta questa premessa... Con le motivazioni che sono state date per la bocciatura della candidatura delle Olimpiadi, no al cemento, no alle speculazioni, no al mattone, che in realtà noi non costruiamo nulla, credo che... Si farà. No, questo non lo so, né lo so né mi permetto di dirlo. Credo che onestamente... L'opinione se l'è fatta. Beh, credo che onestamente qualche contraddizione su questo ci potrà essere. Ma chi dirà l'ultima parola sul suo stadio, allora? Mettiamola così. Chi è che dice l'ultima parola? Sì. Ma lì ci sono delle responsabilità. No, ma alla fine uno decide, no? L'amministrazione comunale insieme a quello che è la regione, entrambi hanno un ruolo quindi molto importante. Quindi sindaco e presidente della regione diranno sì o no. Esatto. Ok. Senta, questo è l'ultimo anno di Totti, lei è romanista, ci avrà il cuore sanguinante, ma che Roma sarà senza il capitano? Sanguinante perché l'ultimo anno di Totti? Immagino. A parte che non ne sarei proprio così sicuro, devo dire la franchezza. Poi ho letto un'intervista recente in cui ha detto che sta cominciando a pensare di fare l'allenatore, cosa che è stata anche per me una novità. Ma io penso che anche su questo nella vita è un po' come la candidatura. Uno a un certo momento ci si deve abituare, fermo restando che comunque sarà una Roma diversa senza di lui. Senta, ma peggio niente Totti o niente Olimpiadi? No, peggio niente Olimpiadi, perché le voglio dire qualche cosa, che Totti ha fatto la sua, noi ci hanno impedito di gareggiare, attenzione, perché chi ci ascolta, io devo ricordare una cosa, non è che ci è stato detto no ad organizzare le Olimpiadi, noi ci è stato detto no di continuare a candidarci per poterle ospitare, certo, che è un concetto diverso. Senta Presidente, lei ha detto lavoro moltissimo, l'ha ripetuto, non ho tempo per me, ha detto per questo non è vero che sono un playboy, non è vero niente. Senta che cosa ci ha detto Cesare Romiti a proposito del tempo perso per lavorare troppo. La cosa che maggiormente mi è mancata, mi sono accorto di aver mancato, è capire i miei figli, i miei nipoti, vedere come nascevano, come crescevano, chi erano. Io non li conosco, non li ho mai conosciuti. Mi sono privato di una delle gioie più grandi, che è una delle gioie più grandi che dà anche il fatto di pensare a un Dio, a pensare a un qualche cosa che ci sarà. Ed è con vero rammarico che dico questo, però è un errore grosso che ho fatto. È un rischio che corre anche lei. È forte, dice delle cose, dice delle cose vere, delle cose che condivido. Io non a caso mi sono candidato per il CONI quando le mie due figlie grandi non vivevano più con me, una è andata a Milano, l'altra è andata a Parigi. E, è stata una scelta di vita. E cerco, magari facendo gli straordinari, comunque di essere un buon padre. E indubbiamente uno lavorando così trascura delle cose, questo è poco ma sicuro. Senta Presidente, un'ultima cosa, il Giubileo della Misericordia di Papa Francesco sta finendo, non si sono fatte grandi opere, non si è fatto praticamente niente, le buche che c'erano sono rimaste, sono arrivati milioni di pellegrini ed è andato tutto bene. Sta cambiando qualcosa anche oltre Tevere? Ma insomma, diciamo che è stato un giubileo come tutti i giubilei importanti, però non quello, diciamo, che è considerato quello straordinario, quello, diciamo, non straordinario. Qualche milione di pellegrini è arrivato, sì, un paio di milioni, non si necessitava in questo caso di fare opere particolari, grazie a Dio almeno fino al momento non ci sono stati quelli che erano, diciamo, i rischi degli attentati e terrorismo. Speriamo di completare così il percorso. E non sta a me dire se è cambiato qualcosa a Tevere, però penso che anche lì Padre Francesco, Papa Francesco sicuramente, diciamo, ha detto la sua. Senta, un'ultimissima cosa, Leonardo Cenci, che è un ragazzo malato di tumore, che il prossimo 6 novembre correrà la maratona di New York e domani racconteremo la sua storia, però volevo chiedere, Leonardo Cenci le ha fatto una proposta per le Oncolimpiadi. Si faranno? Leo è un gigante, un fuoriclasse della vita, e lo conosco bene, stiamo supportando queste sue iniziative, è encomiabile la sua forza. Gli ho spiegato che la parola Olimpiadi è riservata al CIO, però è un progetto che onestamente, se posso, gli do una mano, stiamo cercando di individuare il percorso per cercare di organizzarla. Grazie Presidente Malagotto, 0024, numero verde 349-238-6666, l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Mix 24. Allora, un titolo, Mario, dell'intervista Malagò, titolo. Un gentleman non per caso. Pietrangelo? La Niene è la patria che amo. Devo dire, bella, che sta molto bello. Vai con la canzone. I wonder where it all began. Was it in a place or in a heart? Was it outside in the pouring rain? In the darkness where the dream is dark. La metropolitana? E in metropolitana c'era Cupido oggi, se ne stava tornato, nascosto nel cappuccio della felpa di una ragazza, aspettava il momento buono per scoccare una freccia e farla cadere innamorata, che insomma è pur sempre un cadere in tutto l'innamorarsi. Ma si è distratto Cupido e ha tirato il dardo quando lo sguardo di lei è caduto nella pagina in cui Ettore cade trafitto sotto i colpi di Achille. Ha chiamato Don Chisciotte, ha voluto questo brano e ha detto in un messaggio: ma è possibile che io perda sempre i duelli con Valentina? La Valentina, gran tipo, eh? Ma che Valentina, boh, io la conosco. Sì, che la conosci. No. Dai, vai, no, vai. Sei bugiardo anche tu, qua tutti bugiardi, dai. Vabbè, un po' di bugia. Someone before the night is through, somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Mamma mia, che belli sono gli Eagles, Giovanni. Eravamo molto giovani. Giovanissimi. Vabbè, però noi siamo sempre giovani nello spirito, in ogni caso. Senti, io mi sono fatto un giretto nella provincia italiana stamattina, te lo dico subito. Non ci sono grandi cose sulla globalizzazione, mondo, no, per fortuna. Per oggi no, però domani sì di nuovo, perché insomma a me la provincia mi piace, ma fino a un certo punto. Senti, io ho trovato un titolo meraviglioso sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Sai che oggi si discute di fisco, condoni. Sì. Titolo: ente irrigazione, nessuno paga l'acqua. Sommario: crediti per 70 milioni. La Basilicata ne deve oltre 16 per l'agricoltura. Occhiello: il commissario porta le carte in procura. Ora. E l'acqua? L'acqua se la sono consumata tutta gratis. Ora voi capite, noi stiamo discutendo di che cosa? Che è di una metafora idrica del nostro dissesto. Un buco nell'acqua dell'educazione civica. La vittoria invece della soluzione cinica. L'evasione. Evasori, l'evasione. L'evasione è sistematica, lo vedete, perfino nelle istituzioni. La Basilicata che non paga l'acqua all'altra regione, alla Puglia. Ma che cosa volete? Che cosa volete? Siamo dunque, secondo me, alla riformulazione linguistica del significato stesso di evasione. E poi... In certo, ogni perché caso... è un'evasione quella di una regione controllata, sì. È meraviglioso, certo, ma certo, sì. Tutti consumatori contro consumatori, cittadini contro cittadini, evasori contro evasori, e a un certo punto, tranquilli, c'è il condono per tutti. L'offerta del discount tributario è una cosa da valutare. Ho fatto ieri una telefonata meravigliosa con uno che ne capisce più di me e mi ha detto: a questo punto conviene non pagare le tasse, prendere tempo, guadagnare in tempo e interessi e poi eventualmente pagare se ti beccano. Perché con la cancellazione di Equitalia voglio vedere come fanno ad assumere 8.000 dipendenti. Vabbè, senza concorso pubblico. A non pagare le tasse. No, veramente. Io dico le conseguenze potenziali di questa cosa qua. Interessante. In ogni caso il fisco continua a perdere acqua. Salamino! Contrordine, compagni! Diceva un tempo lo strillone della cellula comunista. Aveva tre narici, no. Guareschi gliene disegnava tre ed era trinariciuto appunto. Leggeva due copie dell'Unità simultaneamente, contemporaneamente, immantinente, e assolveva il compito proprio del militante nel proclamare la speranza. Ad avvenir baffone! E vai! Contrordine, compagni, adesso si leggono soltanto le cosiddette e-news. E-news si dice così? E-news. Vedi, io mi sbaglio sempre con questo. Va bene, insomma, aspettiamone. Con le e-news di Matteo Renzi, e-news. Che sarebbe appunto il bollettino interno di comunicazione del leader che tutto il mondo ci invidia. E lì, soltanto lì, i compagni possono conoscere le tappe della progressiva progressione progressista del sole dell'avvenire già bello che è avvenuto. Insomma, Giovanni, ce lo ricordiamo, in principio per Renzi la guerra contro chi fu? Fu contro ogni Anacleto Zagrebeschi, e io ho pizzicato un dialogo tra di loro. Che bel gufo impagliato. Sicuramente molto meglio di te. Oh. E il resto non me l'avete messo, va bene. Ha solo un pezzo. Io penso, insomma, è troppo presto la mattina. Dopo Anacleto Zagrebeschi e la volta buona, lo ha detto ieri nella E-News, chi? Di vedersela con un nuovo nemico. E sapete chi è questo nuovo nemico? Chi? Dracula. Ma no, aspetta però. Vampiro dal nero mantello. Perché ha detto che dopo i gufi, lo ha detto Matteo Renzi, che è il leader che tutto il mondo ci invidia, dopo i gufi facciamo anche i conti con i vampiri. Ora, quella della zoologia è una vera fissazione per il leader che tutto il mondo ci invidia. Lui è preciso come Napoleone. Ma no, Bonaparte, il suino, no, senza offesa, e mi riferisco a quello della fattoria degli animali di Orwell. Lui di ogni prato fa aia. I giornalisti, per esempio, specialmente quelli della Rai, come li vuole così. Questo è il ballo del qua qua e di un papero che sa fare solo qua qua qua. E il popolo, e il popolo poi, come lo vuole il popolo? Il popolo per lui è pur sempre una pecora zoppa, una pecora che va nel bosco. La pecora è nel bosco. Ma insomma, Matteo Renzi, il leader che tutto il mondo ci invidia, tant'è vero che lì nella capitale del mondo lo vogliono, lui stasera va direttamente da zio Tobia e lì... Zio Tobia oltretutto gli ha detto che se vince il no lui non si deve dimettere, quindi è contento. Anche e Obama. Lì lui finalmente li trova tutti. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, dove c'è lo zio Tobia, ia ia oh. C'è un bel cortile, un orticello, un recinto col cancello, c'è vicino la ferrovia. Ricordo che Obama a Cameron non ha portato tanta fortuna. No. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Mix 24. Roma, 1960. Sta per avere inizio la 17ª Olimpiade dell'era moderna. Il 25 agosto del 1960, alle 16.30, il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi apre ufficialmente i Giochi Olimpici e l'Olimpiade di Roma. Proclamo l'apertura dei Giochi Olimpici di Roma, celebranti la 17ª Olimpiade dell'era moderna. L'Italia, che è uscita da 15 anni dalla guerra, si butta in un'avventura entusiasmante. 84 nazioni, 5.000 atleti, 20 differenti discipline. Sullo sfondo delle competizioni i siti archeologici, dalle terme di Caracalla alla Basilica di Massenzio. Si mescolano medaglie e mondanità. Per la capitale d'Italia la grande Olimpiade è vetrina e opportunità. Le Olimpiadi hanno portato a Roma senz'altro del benessere, comunque una curiosità, un'attenzione della quale qualunque paese ha bisogno. Si avvicinò al mondo sportivo il mondo in generale, molta gente che non si occupa assolutamente, fu però presa da questa idea che far fare a Roma una bella figura era un interesse di carattere generale ed eravamo tutti impegnati a realizzarlo e ci si riuscì. Era un'Italia creativa, lanciata verso il futuro e non guardava troppo indietro. Ma solo vivendola dentro ti rendi conto il mondo che si muove con un'organizzazione imponente e tutto ha funzionato nel modo migliore. Credo che è la storia. Vabbè, dopo il giornale radio dunque una puntata dedicata alle Olimpiadi di Roma del 1960. Mario, c'è ancora una bolla? No, se, mentre andavo in onda questo promo, diciamo, auto nostro promo, c'è la voce di Andreotti, era una meraviglia. un'altra classe dirigente, posso dire. Dillo pure. Era proprio un'altra cosa. Vai. Sì, andiamo. Ok. Questi sono gli ACDC, il brano è Playball, andiamo veloci, continua il giro in provincia, fantastica questa. Allora, c'è un titolo del Gazzettino, quindi siamo passati dal sud della Puglia, della Gazzetta del Mezzogiorno, al Gazzettino, che è il Veneto, Venezia. Titolo, spariti il parroco e 300.000 euro. Persi al gioco dalla perpetua. Allora la storia è stupenda. Il parroco incassa le offerte dei fedeli, aiuta la perpetua in difficoltà. Lei si gioca tutto il tesoretto alla slot machine, lui sparisce e abbandona i fedeli per una pausa di riflessione. Voi mi insegnate che questo è il tipico caso di Cherchez la femme. E in ogni caso, soldi, gioco e donne. È la chiesa, fratelli. Sarà solo quello, dai. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, luglio 2016. Alcuni antinfiammatori, in particolare il diclofenac, migliorano il dolore e la funzione nell'artrite di anca e di ginocchio. L'artrite di anca e di ginocchio è uno dei problemi ricorrenti proprio perché è legato all'invecchiamento della popolazione ed è in genere curato con gli antiflogistici non steroidei. Allora si sono valutati tutti gli studi fatti su queste due osteoartrite tra il 1980 e il 2015, studi che avessero perlomeno più di 100 pazienti. Sono usciti fuori 74 studi clinici, quasi 60.000 pazienti, per valutare 7 antinfiammatori non steroidei: il celecoxib, il naproxene, l'ibuprofene, il rofecoxib, il lumiracoxib, l'etoricoxib e il diclofenac. Due di questi, il rofecoxib e il lumiracoxib, sono praticamente non più utilizzati, gli altri invece sono in genere utilizzati un po' casualmente, ognuno prende quello che gli è stato consigliato magari dall'amico, oppure il medico prescrive quello che gli è più abituale. E allora tutti i farmaci sono meglio del placebo, ma in modo modesto. E se ne distaccano due, in particolare il diclofenac e l'etoricoxib, perché hanno delle caratteristiche di maggiore efficacia. La cosa anche che è uscita fuori è che l'acetaminofene, il paracetamolo, che abbiamo detto è utilizzato tante volte, soprattutto nei bambini e comunque negli accessi febbrili, per questo tipo di dolore, il dolore cioè di osteoartrite, di anca e di ginocchio, nulla fa. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ci propone? Oggi una canzone per chi, seppure consapevole che si tratta di repliche, ripete, e anche se sono marigianoti, veleggia. Lucio Battisti, Io ti venderei. Amico profondo sarò, paure sbagliate, commedie giocate vivrò. Io ti venderei.